Capitolo 3. Ritorno al castello. Il mattino seguente Anna aveva concluso una settimana che era stata piena di piacevoli giornate. Portò i fiori sulla tomba di Matthew e nel pomeriggio prese il treno da Carmody verso casa. Per un momento pensò a tutte le vecchie amate cose dietro di lei e poi i suoi pensieri cominciarono a correre davanti per le cose che amava di fronte a lei. E il suo cuore cantò per tutto il tragitto, perché stava andando a casa, in una casa gioiosa, una casa dove ogni persona che varcava la soglia sapeva che era una casa sempre piena di risate. I bambini con riccioli e ginocchia paffute che le avrebbero dato il benvenuto, e stanze dove le sedie attendevano con pazienza i suoi abiti e aspettavano gli armadi, e dove piccoli anniversari sono sempre stati celebrati. E piccoli segreti sono sempre stati sussurrati. È dolce sapere che mi piace andare a casa, pensò Anna, pescando dalla borsetta una certa lettera ricevuta da un figliuolo con il quale aveva riso allegramente la sera prima. Leggendo la lettera con orgoglio agli abitanti di Green Gables, la prima lettera che avesse mai ricevuto da uno qualsiasi dei suoi figli. Era abbastanza una bella letterina per un bambino di 7 anni e scritta da chi va a scuola solo da un anno era anche meglio, anche se l'ortografia di Jem era un po' incerta e c'era una grande macchia di inchiostro in un angolo. Dee ha pianto tutta la notte perché Tommy Drew le aveva detto che avrebbe bruciato la sua bambola sul barbecue. Susan ci racconta delle belle favole alla sera, ma lei non è te, mamma. Mi ha lasciato che la aiutassi a seminare i fagioli la scorsa sera. Come ho potuto essere felice per tutta la settimana lontana da tutti loro? Pensò la proprietaria del castello Ingleside, autorimproverandosi. Che bello che ci sia qualcuno che ti attende al termine di un viaggio, gridò mentre scendeva dal treno a Glen St. Mary in direzione delle braccia tese di Gilbert. Non aveva mai la sicurezza che lui potesse andarle incontro. C'era sempre qualcuno che moriva o doveva nascere, ma il ritorno a casa non sembrava mai andare bene ad Anna, senza di lui. E lui indossava un tale bel vestito nuovo, leggero, grigio. Oh, come sono contenta che ho messo su questa camicetta color guscio d'uovo e ornata di trine, abbinata al mio vestito marrone. Anche se Mrs. Lynde pensava che fossi pazza a indossarlo per il viaggio, se non fossi stata vestita così, non sarei stata abbastanza elegante per Gilbert. Ingleside era tutta illuminata, con allegre lanterne giapponesi appese sulla veranda. Anna correva allegramente lungo il vialetto delimitato da narcisi. Ingleside, io sono qui, sono tornata, annunciò. E in un attimo erano tutti intorno a lei, ridendo, esclamando, scherzando, con Susan Baker sorridente, che stava correttamente in disparte. Ognuno dei bambini aveva un bouquet scelto appositamente. Perfino Shirley, di 2 anni, ne aveva uno. Oh, questo sì che è un bel benvenuto, disse la mamma. Tutta Ingleside sembra felice. È splendido vedere la mia famiglia così gioiosa di vedermi. Se te ne vai ancora via da casa, mamma, disse Jem solennemente, io me ne vado e tolgo l'appendicite. Come si può fare per toglierla? Chiese Walter. Shh, disse Jem e segretamente diede una gomitata a Walter e sussurrò. Ti fa male da qualche parte, io lo so, ma voglio solo spaventare la mamma, così non va via un'altra volta. Anna voleva fare 100 cose tutti insieme, abbracciare tutti, uscire di corsa nel crepuscolo a raccogliere alcune delle sue viole del pensiero. Si trovavano viole del pensiero ovunque a Ingleside. Voleva raccogliere la piccola logora bambola rimasta sul tappeto, ascoltare tutti i ghiotti e succosi pettegolezzi e notizie dove ognuno offriva qualcosa. Come Nan, che si era infilata un tappo di un tubetto di vasellina nel naso quando il dottore era uscito per caso e Susan si era un po' distratta. Le assicuro che ho avuto momenti di ansia, signora dottora, cara, come la mucca di Mrs. Jude Palmer, che aveva mangiato 57 chiodi tipo Wire e si dovette far arrivare il veterinario da Charlottetown. O come la distratta signora Fenner Douglas, che era andata in chiesa a capo scoperto. Come il padre, che ha zappato tutti i denti di leone fuori dal prato, Tra un bambino e l'altro, cara signora dottora, ne ha avuti 8 mentre eravate via. Come il signor Tom Flegg, che si era tinto i baffi, e sua moglie è morta da soli 2 anni. Come Rose Maxwell di Harbour Head, che aveva lasciato Jim Hudson di Upper Glen, e lui le aveva mandato il conto per tutto quello che aveva speso per lei. Quale splendida partecipazione c'era stata al funerale della Mrs. Amasa Warren. O come il gatto di Carter Flagg, a cui era stato staccato a morsi un pezzo di coda. O come Shirley, che era stata trovata nella stalla in piedi proprio sotto uno dei cavalli. Signora dottora cara, non sarò mai più la stessa donna. O di come era fondata la nostra paura che gli alberi di prugne si stessero ammalando. Di come Dì aveva cantato quasi tutto il giorno: Mamma torna a casa oggi, mamma torna a casa oggi, torna a casa oggi, al ritmo di un'altra canzone. O come da Joe Reece c'era un gattino strabico che era nato con gli occhi aperti. Di come Jem si era inavvertitamente seduto su una carta moschicida prima di aver messo i pantaloni. E di come Gamberetto era caduto nel barile dell'acqua piovana. Era quasi annegato, signora dottora cara, ma per fortuna il dottore sentì subito i suoi lamenti e in extremis lo tirò fuori afferrandolo dalle zampe posteriori. Che cosa è in extremis, mamma? Sembra aver recuperato bene dal bagno, disse Anna, accarezzando le lucide curve nere e bianche di un contento omicino con enormi guance che faceva le fusa su una sedia alla luce del fuoco. Non è mai stato del tutto sicuro sedersi su una sedia a Ingleside senza prima aver controllato che non ci fosse qualche gatto. Susan, che non si era mai preoccupata molto dei gatti, per cominciare aveva promesso di imparare a farseli piacere per autodifesa. Per quanto riguarda Gamberetto, Gilbert lo aveva chiamato così un anno prima, quando Nan aveva portato a casa un misero gattino tutto pelle e ossa dal villaggio dove alcuni ragazzi lo avevano torturato. E a quel nome si era aggrappato, anche se adesso era un po' inopportuno. Ma Susan, cosa ne è stato di Gog e Magog? Oh, non saranno stati rotti per caso? No, no, cara signora dottora, esclamò Susan, colorandosi in viso di un color rosso mattone vivo dalla vergogna e precipitandosi fuori dalla stanza. Tornò subito con i due cani di porcellana che da sempre avevano presieduto il cuore di Ingleside. Oh, davvero non capisco come ho potuto dimenticare di rimetterli al loro posto prima che lei tornasse. Vede, signora dottora cara, la signora Charles Day di Charlottetown ha fatto sosta qui un giorno dopo la sua partenza e lei sa come sia molto scrupolosa e perbene. E Walter credeva di doverla divertire e ha cominciato a indicarle i cani dicendo: Questo è Dio, questo è il mio Dio, ha detto. Povero bambino innocente, ero terrorizzata. Anche se pensavo che sarei morta nel vedere il volto di Mrs. Day, ho dato una giustificazione come meglio potevo perché non volevo che si pensasse che siamo una famiglia profana, ma ho preso la decisione di mettere via i cani di porcellana nello stanzino fuori dalla vista finché lei non fosse tornata. Mamma, possiamo cenare presto? Disse Jem pateticamente. Ho una gran fame, gnam gnam gnam, una strana sensazione alla bocca dello stomaco e... Oh mamma, abbiamo cucinato i nostri piatti preferiti. Noi, come disse la pulce all'elefante, abbiamo fatto davvero quelle cose, disse Susan con un largo sorriso. Abbiamo pensato che il suo ritorno dovesse essere adeguatamente celebrato, signora dottora cara. E ora dov'è Walter? È la sua settimana di suonare il gong dei pasti, benedetto il suo cuore. La cena fu una festa e mettere tutti i bambini a letto poi una vera delizia. Susan aveva anche permesso di mettere a letto Shirley, vedendo che quella era un'occasione molto speciale. Questo non è un giorno comune, signora dottora cara, disse solennemente. Oh, Susan, non esiste una cosa come un giorno comune. Ogni giorno ha qualcosa che non ha un altro giorno, non hai notato? Oh, quanto è vero, signora dottora cara. Anche lo scorso venerdì, come adesso, quando è piovuto tutto il giorno ed è stato così noioso, sul mio grande geranio rosa sono spuntati i boccioli, dopo che per 3 lunghi anni si era rifiutato di fiorire. E ha notato la calceolarias, cara signora dottora? Oh, noto. Mai in vita mia avevo visto questo genere di calzolari a Susan. Come riesci a farla? Ecco, ho fatto felice Susan e non ho detto una bugia. Mai ho visto quelle calzolarias, grazie al cielo. È il risultato di una costante cura e attenzione, signora dottora cara. Ma c'è qualcosa che penso di doverle assolutamente dire. Credo che Walter sospetti qualcosa. Senza dubbio alcuni dei bambini qui gli hanno detto qualche cosa. Tanti bambini al giorno d'oggi sanno molto di più di quanto sia conveniente. Walter l'altro giorno mi ha detto, molto pensieroso, Susan, mi ha detto, i bambini sono molto costosi. Ero un po' sorpresa, cara signora dottora, ma non ho perso la testa. Alcune persone pensano che siano un lusso, risposi io, ma a Ingleside pensiamo che siano una necessità. E mi rimproverai di essermi lamentata ad alta voce del prezzo vergognoso delle cose in tutti i negozi di Glen. Temo che il bambino si sia preoccupato. Ma se lui le dice qualche cosa, cara signora dottora, sia preparata. Oh, sono sicura che hai gestito la situazione benissimo, Susan, disse Anna gravemente, e penso che sia giunto il momento che tutti sappiano che cosa stiamo sperando. Ma il meglio di tutto fu quando Gilbert andò da lei, che se ne stava alla finestra a guardare una strisciante nebbiolina che arrivava dal mare e andava verso le dune e il porto rischiarati dalla luna. Proprio dentro la lunga e stretta valle nella quale Ingleside guardava in basso l'accoccolato villaggio di Glen St. Mary. Tornare al termine di una dura giornata e trovare te? Oh, sei la più felice Anna delle Anne. Felice! Anna si chinò ad annusare un vaso pieno di fiori di melo che Gemma aveva messo sul suo mobile da toeletta. Si sentiva circondata e avvolta dall'amore. Gilbert, caro, è stato bello essere ancora per una settimana Anna di Green Gables, ma è 100 volte più bello tornare ad essere Anna di Ingleside.